Abbassa le voci. Sono bidrombe. Tutti morti sono. Tutti hai filata su andati, oggi hai filata su andati. E allora, lo saranno. E allora, come che te, poltrone? Loro si fanno giro, si divertono con la cavalcata. Ehi, già me ne fai guardare il televisore io. A Vigliolina. No, a Vigliolina. Vedi che mi c'è la cavalcata, senza camminare, senza vannuta. Ehi, vabbè, ma tu mi vedi in figura così, invece più virtuale migliore. No, eravamo stessi cosati, ti la vai di tranquillo, sereno, pusato, spensierato, di da malena devi stare associato, che ti fuggi da embriagone, che ti rapineggiano. Invece pusato in casa me la giudica tutta, bello, tranquillo, in prima linea. No, no, le fiorelle tu non li vedi così da lontano, bene a vederle vicino. No, già le vengo pure a te, sei vicino, anzi forse le vedo meglio anche di inquadrare lì, proprio da vicino. No, è così, virtuale è la cosa più bella, dai. Allora già mi piace armata e così a vederli, erano tutti vecchi. Per carità, gatta. Boh, io pensavo che i ragazzi in prima fila, gatta, gli si mancarelli, figlia di cosa, magna di durrone, gatta. No, no, la giubiliata rimane, le bancarelle, la cosa. Non te l'hai mandata la fotografia. Sì, hai mandato la fotografia di questa rumbetta, di, come si chiama? Chissà, strugarina, chissà, strufeo. Bruno, me la metto. Ah, non te l'hai mandato, che mi ha giubiliato. Tutta roba sarda. No, mi ne hai mandato, di chi se non mi ne hai mandato. E cos'è, illumina, e cosa hai pigliato? Ah, sì, sta te la mando, da, ma a me non ti venga la fame, mi. Davvero? Cazzo, qualcuno di coppia adesso mi svicca. Beh, ma ci ho mangiato quasi una ragosta di 2 kg. Ah, sì, sta. Allora, una, vediamo, ecco qua. Questo è uno, avanti mando l'altro, Vite la giovanda, uno è pronto a impurrare, l'altro è già magnete. Qua non mi è arrivato niente. Se ce l'ho qua, segnato, già ti è arrivato, guarda, su WhatsApp. Arrivato ti è. Ma di questa cosa, ma c'è un frigorifero pieno di questa cosa io, grazie, cosa? Ma che sa di qualità, è roba proprio saggia. Che roba extra mangio io? Io mangio roba saggia, cazzo, cosa ti credi? E ce ne va pure, no, di chi si dilogino, di montagna. C'è tutta roba di nuvolo, tutta azzata, proprio da un bacciorazzo, va finta rubiaco del bacciore. Saggio di chissà, casa, ma la prima è barina di 2 o 3 ancora imbricata, fammi il strazio, dopo per un gancio puro, proprio di montagna, certo. E cosa vuoi, ma roba buona fino, e ancora non è fatta bene, però mi piace molto a me, capito? Ma chi su, con un vermicelli non virai tu, buonareggio, con i vermi. Certo, No, non la giudici a desiderio di questa cosa, è a voglia andare a giocare. Magari la possiamo avuto l'appetito a mangiare a mira questa cosa. Ma, voglia, per carità, la posso pure di un coso, di un... Come se la buletta la sai di questa cosa, buona retta era. Ma che c'è buona fede, perché tutta roba nuorese di nuccolo e paese di storni, orgosolo, funni, un burro che su gaci con i vermicelli che saltellano, ti dici di non mi mangià. Quello che sta a carne, quello battato. Boh, chi si è battato l'uomo, non mi piace. Tu battato, chi si è buona vera, chi è battato di zozzo, Un burro ti si scioglie, non sai cos'è, t'ho sementato. Ti romagni il burro crudo di casa è buono. Oh, dimmi dire, che i sabbi si battato, non andava bene, non andava bene. In mezzo ai saccari non andava bene un battato. E allora, dopo la gioventù condito, oh yeah, che si costolette la gioventù, la gioventù va a succiatura. Oh yeah. Non senza di niente, no, oh yeah. Roba buona di voi, roba buona, ma noi di voi. Per carità, cazzo, ma di voi chi dobbiamo cubiacco leggermente quei vermicelli, di voi? Mi viaggio, mi, tutti i bricchitenti, buona reggio, apri la bocca e entra la rasura, sì. Roba bianco bianco, cazzo. Accucciare si mangia, cazzo. Ha già messo una forma. Invece così tondo tondo. E ogni tanto piglio un cucciarino e ve lo pongo in un balino così, no. Cazzo, oh yeah. Io mi la giubbotti la vaschetta, allora sei diventato un burro. Un cucciolino ripagli ben bene che ci vanno a fette, quello che uso per fare il tosto. Un sapore brocchi buono, buono, buono, mi. Da buon vivo il subinetto di oliera, rubiacco, però non lo rubio troppo forte, rubiacco, chi c'è d'oliera, ma niente chissà cosa, oh, non ti dico niente. Ruggio, chiaro gioco, e viraggio, buona reggio, pare sangue di cante ruglio, sul rosso nero rimane. Davvero? E allora, e chi te lo sente su flippero? Ma, dici ci andare a cazzo, ma è a me proprio, non è che... Oh, non è che non li posso mangiare, sai, capito? Mi piace ieri, mi piace un bel, però non posso mangiare. Un tempo lo mangiava vero, e succiava pure. Ah, vai, cosa fai? Oh, cazzo, pizzola va a toccare a mangiare. Ma, va bene, ma tanto basta, sai, mangiare un poco già andava abusarli, no? Però... è sempre buono assaggiare un pezzo di ghiddo, un pezzo di ghiddo, un pezzo di ghiddo e non dica mangiare né un bel, ma ogni tanto gli avvivo un po' carito. Ho detto, Luca non si è sentito, la gente su stamani. E boh, un messaggio mi ha mandato e boh. Ma è brutto o è bello? Tutte e due, sia il bello che il brutto, che sono ci sono usciti stasera? Ci sono in casa a casa tutti e due, sono in giro a brassetta sono tutti e due, pare due arecironghi. E allora, non saranno, sono andati i miei figlioli maestri che vera, il mondo, si cazzicavano. Ma è di piazza in mezzo alla gente, capito? Oh, che io lo vado in mezzo a passaglietti, non saranno. E un po' di turisti vedano. E si vedano. E vedano chi si vuole. Nonnaggia, manca a baitata la televisione, se mi immaginate. Tu da me, no? Che stanno, no? Era... Oh, gli... Oh, certo. Mi si può fare la... Comanzano. Un po' che magazzino, passeggiata, a dare di nonchi. Poi fa, e hai già ammazzato tanto manzano così. Ciao signor, ragazzi, mangiamo, ma se ci cose mi sono che cosa l'hai taruletto, ho già fatto la tronomita. Hanno 4 mesi, mi sono che scendato. Ed eccomi no, che mi... No, io mi ho guardato due film al televisore. No, a cuccarmi manco un basso. Ho guardato due film, al manco qui che ha giusto stasera. No, non l'aveva mai visti, erano in prima visione, tutti e due, che erano belli. Ma, troppo voce la giudice, perché no? Oh, non mi piace, ma capire. Quello i cantarini, non ha baito. Qualche voce la baita in televisione, basta, boh. Anni fa la fandavo. Ma vanno, andiamo, non mi piace manca mai tagli. Perché se prendiamo la stessa cosa, amico, cosa ti pensi, ci andiamo da qualche cosa? È sempre la stessa cosa. Io me l'ho guardato al televisore stamattina, no, c'hanno ciambanda, sono sempre la stessa cosa. Gli vicini sono sempre di matessi e le sfilate è sempre la solita. Boh, chi di curino si vede il ciubucco di Rusindaco, assaggendo li vicotti salda, grasso mente un poco, ma come fra poco gli appigliano moro, chi su Sindaco, feo, chi su Dappo. Purtroppo è così. Minimo si avrà fatto un carro che ha crocco oggi Rusindaco. Ma mi si invece, mi capito? Due nocciolini, un pezzo di turrone, un pezzo di gatto, un bicotto, una batta di birra, di fatele così. Già ve l'avranno dato un bacco, tranquillo, già ne ha bucato oggi merce, sta pieno la macchina oggi. Ah? Chi già ne avrà bucato oggi di roba di chi si paese, il sindaco, gli abitanti dati? Ah, certo. Magari hai 7 mesi, hai 7 mesi per un solo giorno, mi ha preso un pensaretto e basta, va. Allora ce n'era un pezzettino, l'ha fatto vedere qua. E cosa vuoi fare? Beh, mia va, e a cialato mi ho fatto la barba, la va, ma sono di andare un capo, torra. C'è la doccia, mi fosse troppo in vittaglio, mi fosse la doccia, che è andata a una messa, è andata io, dalla parte d'occhio, con la figliola, così che, sai che per mi fosse la doccia, e mi rinfresco un po' carino. E cosa è messa di qualche buco? Messa di qualche morto, Ah? C'è una messa di qualche morto. Eia! Di chi c'ho? Come si chiama? Va, non mi lamento. Uno che conoscia io, ma non la mia cara andava, se è andata da quella figliola. Dico che era sempre in Germania, è successo un incidente, da poi si era un tairo che e da pochi anni se n'è andato e oggi ve l'ha messa. Sarà stato malato, ma sarà stato malato, giovane Guida. Ehi, mi pare abbia 65. 60 o 65 l'abbiamo, ma cosa hai detto? Lui la vince, vuol dire, ma vi ha fermato, sicuramente, ma... pure dai saldorati, pur se non venne. Pure stavo, oggi veniva un carrofone tra i nomi, sono stato grato al cielo. Sì, a chi c'è, però, sì, va bene lì. Castigato in Germania, va via ricastigato, lui abbiamo avuto un incidente in Germania, capito? Ed era invalido, capito? Ed era invalido all'anchi, infatti non potevamo fare niente, la macchina, però era tutta al volante, si ricomanda il volante via. Già ne vai con Barecci, quindi nella macchina, con il comando al volante. Così è. Purtroppo. Oggi mi sei, domani no, ma è cosa si buffa. La vita così. E Rosi, a fe? Fai le croci ferma, E da si fa il bisciolino. La sera, la bollino con un caffè verso le 5, si che mezzo. Sa stai la TV, sa mai dalla TV, fate le croci ferma. E cosa fate? Stamani la tutto il mandano brancenti. Ah, se ne è rimasto a poco, se la braccia domani che andiamo a venire a dare un capo. No, mi era un po' che un computer. Ma i denti. Sta fine roba da comprare, ma non mi serve niente, per cui non era pensato così. E l'apparecchio era steso, tutti e due, finalmente l'hanno chiamato giù, e a parte l'ha giurato. Ma non voglio accendere il computer, non me l'ha acceso, ce l'avevo acceso l'altro giorno, tutta la sera. Mi ho guardato, l'altra sera mi ho guardato dei documenti sulla savana, sugli animali, le ori che si mangiano, le gnu, le scimmie, questi documentari così. Sta a fine cosa da pensare, se uno fa pazienza, solo che sta bene un po' mi fa sembrare luci, allora da chi tocca a mollarlo, capito? Quando c'è troppo attaccato alla computer mi fa sembrare luci, allora lo mollo e mi nando al suo luogo. No, quando vieni un documentario mi bacio un po', mi faccio una camminata e anche da poi mi la bacio un altro. Me l'ho visto 4 l'altra sera, già mi ha dato l'orino di cattica, c'è già 7 mesi, che ci vuole al tempo, quando si abbattendo un po' più temi, che sei interessato a guardarlo. Me l'ho visto 4, uno più bello uno dell'altro, della savana. Ecco, che cosa, ma che mi piace da vedere a te, compongo, no, ma non più di un'ora, un'oretta, dai. Ripeto, mi fa sembrare luce da voi, capito? E così che devo volare a fare cosa, capito? Siamo cominciati a lacrimarmi e da voi non si vengo più. Poi mi ha già dato un documentario di chi tu, serpente enorme, il Macomba. Capita, si ha mangiato un coccodrillo bello grosso, mi si dà inguzzito, tu devi vedere un mostro di coccodrillo e chi su serpente Macomba, chi su mano, si dà inguzzito in tre, a piano, a un coccodrillo mi però non è il coccodrillo quello normale, quelli degli altri coccodrilli più umani, di più grossi, si tira in godito. Ehi, ha mangiato un coccodrillo, oddì, dove era un serpentino chissà allora, no? Questo era un serpentone allora era. Perché non è tanto facile a mangiarsi il coccodrillo, eh? Aspetta che l'ha cazzato dalla spiaggetta, lì si è imbrigato tutto intorno, l'ha soffocato, mica era gigante, mi, sia che su Macomba, lo Macomba e quel serpente che manno manno, ti zingò dentro io, a succiadura. Da bene chi l'ha stritolato, si gli dava a destra e a sinistra, sempre stringendo in un bifoccia, un coccodrillo. Proprio l'ha soffocato. Da bene si l'ha girato di punta e ha cominciato a dare un musichino, a trasserci in bocca e curiare i colpi, no, così. E, come ti dico, ingugiti, no? Così così e si entrava. A 20 centimetri un ingudito là che cudiglia. Sì, si dà ingudito, cosa va per appunto? Ehi, a me, certo, è stato un mese per commentare così. I cibi, la leone, l'elefante, tutta una cosa, cose del genere mi piace di tutto a me. E ogni tanto pure io pure mi l'abbaio i documentari, capito? Quando le vengo, mi fermo e l'abbaio. Specialmente i dell'animale, mi piace un bel abbaizzarlo, Però non aggiudico mai un serpente a mangiarsi un coccodrillo, non aggiudico mai, E l'anaconda si chiama, anaconda, quel serpente, è enorme, ci sono anche più piccoli, però sempre la roba in tre, ecco di giù la gente, si cingotti. Tu devi vedere come ti gestirà in cucito, una mostra, dito. Dava un coraggio tra di me di mangiare sacchissimo. Prima l'ha soffocato e poi si gestirà in cucito. Chi si gestirà di tre in tre? Lo greba di crini, lo bressa. E ti ricordi così. E dopo era lui di gireggia. Che te grande infanzia, molto male, sei da roba a me, e te, e già, e ha già vicino che l'ha pigliato lo braccio, e dalla mano è cominciato e si è fermato in un gutto, proprio, si è fermato, e non per la fatica più ha intrattito, così che, infatti, ha dovuto ammazzare un serpente per capannire lo braccio dalla bocca. E abbinire la bocca. No, invece ne ho visto un altro di documentario, vedano questi pastori negri, no, con l'animale che vive le mucche. E si era appisolato il pastore sotto un albero. Esci di uno di questi serpenti e si c'era ingoggita, quando ha visto lui c'era la amida in bocca di Gitto. E si c'era ingoggito. A scanto ci sono abitati i nostri pastori che l'hanno chiamato in Norvegia, ne hanno visto un serpente, hanno bloccato un serpente, sono riusciti a bloccarlo, l'hanno abbesso dopo di tanto, e ne hanno bloccato, meno male era ancora vivo, ed era tutto avvolto con una specie di gelatina, tutto imburigato era. Quando si sarà ingoggito. Boh, devo accelerare. Aspetta, mi sono matto. Eia, da già fermentendi, eia. Attento, Luca, prifero, non entri. Sì, non sei uscito, no. Non sei uscito, chi vuole entrare? No, non stai uscendo, c'hai una trombetta. Non sei uscito. Attento Luca Prifero. Prifero Luca. Ah, ci sei. Grazie. Dimmi. dai, so gente, io rientro subito, va. Spera che ce la fai, io rientro, ok? Vai, vai, tranquillo, ok. Cuffo triste! Ehi, dormi, dormi! E Lu! Chione Maria, c'è la giunta ieri, e vedi! Stavo cavalcando, la cavalcata! Io l'ho vista la TV stamattina! A me vista a me, ti ho salutato! Ehi, già ti ho visto anche a Chione Maria dentro il carretto! Lui era in quello di cosa, di Calamascio. Ehi, era color vocalo, già l'ho visto già. Mi ha detto che ho già mangiato una rivista più manna di esso. Addirittura. Cazzo. Ma noi come ti dici su Cazzalori, fai caso, no, Gio Maria, eh? E a me mi pare diventato cazzatore, poi mi ha detto che di là è tu, la salsiccia salsa, caggio salgio, l'ha fatto un bucco in mezzo con un cucciarino si romagna, con i vermicelli, che brincali. E un burso come ne ha di, però i fatti contano. E allora, io vi lascio mandare a farvi vedere, e mi ha detto che è di una più di me, e fare un corso pieno, va. Ma intanto la foto non te l'ha mandata, tu mandata per la foto, vuol dire virai. E allora, io vi lascio mandare a burro di Saberra di Bocchito, saggio, l'ho mandato per un battato, mi ha detto che su battato lo seppi. E dove ha detto che è tutto saggio? E lo do io cos'è saggio? Come questo cinco? La dite a chi non vede cos'è? Non lo vedi da un colorito? E si vedia che era saggio, lo do io, che era bacio. Buona rete, l'ha giù fatto male, che ci costoletti. Fissa cosa maletta mi ha detto. Un violino, l'ha giù fatto, lucidi, lucidi. Manco un cane così. E non ti ne hai lasciato a cena? Ma non ne mangio saluti, no. Saluti mi fossero un tè. Troppo pesante ho mangiato col formaggio con vermicelli anche, stanotte leggeri, cazzo, sono entrato in bagno tre volte. Vai tu, cazzo, pensavo al vermicello ti ne esci tu vivo. Saggi da paletta, fammi che ci pezzo di mani, cucchi su gaggio, spannameli un po'. E mi ha mandato dolce dolce a chi me l'aveva già fatto. Vedo, Ciao Mari. Luca, domanda della glicemia che ti sei rialzata. Si è finita imballata la macchinetta. La giubbotto la cicca, ma non segna. Non alza la freccetta e non segna più di tanto, storie. Come ti fa via un tachigrafo che va via un camion, li punia la cicca e arrivi a sempre a 60. Sì, sta c'ho per la stradale, devo da Z a 60. Ui, so cosa hanno fatto a uno di Cagliari, cosa l'hanno fatto? L'hanno fatto il curaesce, l'hanno fatto. Anche lo da qui, no. Non segnava come ti doveva segnare. No, che io prima l'ho contassato, però poi con la cicca mi veniva male a tirarmi da quando mi ha posto il blocco, che mi alzava nella baletta. Allora mi ha posto lo scotch, lasciavo una codetta fuori, come ti veniva la polizia, aprivo e lo giravo, e lo scotch facevo prima a tirarmi. E arrivava a 60, 65, però io di velocità io sento 10, sento 20, 20. Però a segnare mi segnava 60, 65, forzata proprio mi. perché appoggiava allo scotch e non saliva di più a segnare nel dischetto, capito? Però così di questa maniera mi veniva meglio a tirare il nido. Sì, grazie. Finito di giocare, vai, c'è tempo, con da che io avevo mai tutto diverso. Non lo so che va come te, ma chi si vede di prima già me l'aveva scogitato l'umetto, viaggio sempre viaggiando così. Quando veniva la polizia, il malviglia ammazzava la baretta, che tutti a dia a rientrare a parcheggiarmi, non farti traffico, mi lo tiravo. Sì, grazie, la voce è la busta, avai, avai. Luca, tu dove comandò mi hanno mandato una cosa, t'ha già scritto. Però non si è compreso nulla, non si è compreso. Capito? Scrivemelo su WhatsApp però. A chi non ha già compreso, saurini. Comunque ormai è già passata, boh. Ah, ma sì. Illu! E te, che gufo! Ma che torri ragnoni? No, aspetta che noi ragnoni era pochi. Porcetto, signor Porcetto, era Bonaretto, a poi che si vero porro ma è bello ci do su e te Tore, bubo, si è fatto mezzo bocchetto, otto chili di battato. E la rimanenza non gliela dici, gli antipasti. Ehi, salsiccia, cacio gruvemmo. Caccio senza vemo, la mia bocca di merce. Ma dico, se fate vedere il numero di questa macchinetta che hanno fatti. Ah, grazie. Quando devi fare il numero di questa macchinetta è ballata. Ma mamma ci ho studiato un piano, la regola sta macchinetta, io. A chi caccio, 3 o 4, la regola sta. La giorno un po', quando ve la giubaccia, è la regola sta. Ma se tu continui a mangiare cose abbisanti, io penso che non la ciappi bassa. No, già mi lascio la sua macchinetta, chi sei più regolare di mula? Sì, mi hai compreso, e non ti dici, la macchinetta non vedrà nulla, no, lasciala la cosa abbisanti. Vero Luca? A che è scrivi le cose che vi fate incomodo, io lo ripeto, non hai compreso, i cricci miei, tu riscrivi che si fate incomodo. Ma se arrega la macchinetta, le dice la verità la macchinetta, produttore, non hai compreso? Ma siamo per arregano, non è macuno. No, che va Luca, non rubo più il libretto, vuoi la macchinetta. A chi dà un libretto deve essere sgamato. Io mi segnavo quanti uri hai, non me l'ha detto, ma già me l'ha fatto comprendere. E già un 4 o 5 volte che gli porto la macchinetta, vuole portargli la macchinetta. Oh, vabbè, quando mi l'ha dato via un beata, stavolta l'ha detto che me ne caduta si è rotta. Allora me l'ha dato un'altra. Tore. Oh, grazie. Fai prima di dire la verità, guarda, me lo segna alto, la macchietta non gliela porto, però me lo segna alto, basta. Non vedrai, non ti dici nulla. No, e da poi la stavolta ancora la gita, e lei già lo sa le medicine che prendo io, cortisone, e dunque, e mi ha risposto, e già lo so che prendi tutte quelle altre medicine anche per quello che ti sale, la glicemia. Tore, allora si ha fatto. Eh? Si ha fatto a misurare la moglie, la glicemia, hai compreso? Oia! Graziano, è inutile che fai così. Tanto, prima o poi. Però devi dire fai forza, Rogoso, tu ti dici. Allora, cambiamo, aumentiamo di dose. Una volta ha giubilato un cane e l'ha detto, vieni, bello bene che ti misuro la glicemia. Aiuta, Tore! Sì, a chi non usai, il cane burro funziona, se non funziona vuol dire che se ne deve andare. No, già segnato, ed era anche giusta. Ho dato tu cosa? No, l'ugale! No, ma ha pensato di lei, quando l'ha giù butto, basta! fa e la zampetta, no? Fa piccare lo sangue. No, non intendiamo più nulla ormai. Prova a parlare un mio, a vedere. Tu mi scegheggia. Zitto, che ne tu sei? Con quella... c'ho quella specie di pistolina che metti in acqua, spari, manco di nabigi. Bucca esci. Dipende da quanto la pone, giustamente. Io me la pongo a 2, a 3, non di più. A 5 l'ho messa, ma io l'ho modificata. Gli ho messo la molla più lunga e spara più e fa più veloce. Ciao Maria, buonasera. Ciao Maria, buonasera, ben sentito. Tanti mi sei la cavaccata, tu e... buonasera Marino. Passa Rugganta Graziano. Catta, non basta dice che si è fatto. Questo è il giornale di ieri. E la mamma così riposa del tutto. Da fianco a lei, da fianco abitata. Catta, anda vè, anda. Bebù. Ehi, ma giovane la ho. Malato era. E anche in coso, in corso trichetta non l'ha mai avuto a risette di sera, a lutto. Già lo conoscevo già, a Buglia. Già lo so già, chi travagliava sempre in su. Ma, vabbè, abbastanza più bene. E poi... già ti sento bene, sempre con quell'antenna là sono, avanti, grazie, dai, che mi assento 10 minuti. Ehi, veda uno stamane Montalori con la baletta che andava nel bassone di Cavati. Tu ne hai cagato da Rogavati in Piazza Italia e chi tu le trovi su di là tutta a corsa con la baletta, ha fatto 2 o 3 viaggi. E allora, tutto con cime, stava poi intendere un viaggio. Guarda che lo cerco di cavallo costa pure un bel chi vive in via San Paolo dove vendono le cose dei fiori, semi, quello che c'è lì che vende questa roba così, piante e vende vicino al Mar Mista. Io l'ho comprato lì, il concime di cavallo, un sacco da 50 kg, me l'ha fatto pagare una vacca di dinà. Lo sterco di cavallo va bene per le rose, a concimare le rose. Marino. Non so, prima ce l'avevo portato, c'era un'amica di mia figlia, che c'era un cavallo qua vicino a sotto, diciamo, a strada. Andavo, mettevo, con la macchina me ne portavo, poi... Marino, ha fatto attaccare a gola ad attacchi, anche rimasta a gola, giuro. Hai compreso? Stecco non ce n'è più e devi andare all'ippodromo a pigliare a tiro. Me la buttavo nel terreno, poi lo giravo, fino lo giravo. E allora che faceva? Tutto l'avevo preso. Mi ha detto, grazie, ma chi non si è sentito, no? No, non l'ho sentito per niente. E beh, perché non lo chiede al signor Mario, quello del rifornitore della VTV? C'è il maneggio dei cavalli, giù a Serralonga. Quando lavoravo per legnameria, allora gente veniva, si pienavano i sacchi. Gente che gliel'aveva chiesto, no? E scendevano, si riempivano i sacchi e se ne andavano. Anche col carrello paravano. non mangiava colpa. C'è uno con la carriola, non è con la carriola. No. Uno con la carriola gli ha tirato. Ne veniva da voi uno con un carrello, un campagnolo, con un trattore e un carrello. E la rospetta. Si faceva un carrello a ponte che lo faceva, ma a pieno, e se lo buscava. Benissimo, buonasera Graziano, buonasera anche agli altri che non ascolto, io ascolto solo Graziano. Avanti Graziano, si è ascoltato Bocambio. Ciao Patricio, ben senti, c'è Marino, non lo senti, c'è Marino e Tore, e Luca Flippa che si è assentato, Gianni Maria è entrato dopo che è venuta gente. Vai Marino, ben se ti sente, lo senti tu, Abbacchizio? Certo lo sento, abbastanza bene lo sento, ma chi lo ascolti, no? Ma chi se lo sente? Io lo ascolto abbastanza bene. Avanti Tore. Secondo come sei messo non ti ascolta lui, o come è messo lui, boh, non lo so. Dipende dall'antenna come... sicuramente non ti sente. Vero Bacchi? Ah sì, a rate l'ho sentito, due passaggi e poi basta, in mezzo al QRM. Sempre la solita antenna sto usando, come quella che c'ha lui, la piccolina. Sì, aspetta, no, io guarda, sono messo un punto qua, sono appoggiato alla macchina. E a Luca, Graziano, a Torre mi ascolto abbastanza bene, anche a Bacchiglio qua l'ascolto bene. Sono fermo. E in mezzo a QRM sei Marino, non ho capito quello che mi hai detto. In mezzo a QRM, cambia antenna. Poi sono a piazzare, Bacchi, sono a piazzare fuori col gommino, tutto qua. Tu arrivi bene, tutti quanti arrivate bene, solo io arrivo male a te e basta, così è. Avanti, grazie. Ehi, Bacchi ci ha detto che nel piazzale ed è appoggiata la macchina, però gli arriviamo tutti bene, anche tu gli arrivi bene. Solo che lui a te ci arriva così, boh. Non lo so. Capito, Ali? Adesso ti sì, ho capito, in mezzo al QRM me lo ascolto a momenti. Adesso che vado su, attacco l'altra antenna, vado su, vado. Adesso mi ascolta. Ma chi rimani lì? Che sta cambiando lui. Guarda, ma lo fermo qua, volevo mi ascolta. Ma poi va arriva bene qua, è leggermente più basso di voi, però arriva bene. Niente da dire. Ehi, lui a te ti arriva bene, però tu a lui arrivi in mezzo al QRM, a momenti ti sente, a momenti ti sente male in mezzo al QRM, capito? Ti sono uscito stamattina, un pochino, stavo facendo ancora fuori, c'è la felice per me, e stavo ascoltando, c'è gente che o sta facendo servizio in ordine, comunque la gente l'ha cavalcata su questo canale stamattina. E ogni tanto già si mettono anche quando fanno le corse, i lutturini di campagna, l'altra volta erano lì tutta la salita a Santa Landuria, fino a Monteoro ed erano su questo canale di domenica mattina. Infatti quando ho recuperato lungo la strada c'erano le direttive e le bandierine. Sì, guarda. Io ho sentito bene stamattina un paio di volte, però stanno utilizzando questo canale. Avanti tu. Sì, devono stare attenti perché l'anno scorso è successo casino, mi è successo, per questo fatto qua. Li hanno chiamati e li hanno uno a uno, l'hanno fatto in contravvenzione e hanno sequestrati gli apparecchi, li hanno sequestrati. Perché senza licenza, senza cosa non ne puoi usare. Qualcuno ce l'aveva, deve sempre comunicarsi con l'altro, però devono stare attenti usandolo. Magari qualcuno fa un po' del versamento, avevano chiesto anche autorizzazione, boh, non lo so. E a utilizzare il casino penso che lo sanno di ponte a utilizzarlo per il casino, poi dopo io non lo so. Vediamo se Bacchisi una scosa, si è attaccato, attento Bacchisi, ti avanti che siamo. E beh, quando fanno cose così, sono cose di balestra già organizzate, penso che ce l'abbiano un permesso. Magari si sono messi su questo canale e di Gufrici. Però già penso siano in regola, non penso, perché è tutta gente grande quelli che organizzano. Comunque se bisogna si sposti il canale, se io utilizziamo un canale vuoto, non devo utilizzare il canale stesso, un canale vuoto. Cioè, se io... se risolvete noi non possiamo entrare, risolviamo, dunque conviene cambiare il canale a loro, Avanti tu. Buongiorno, sono loro che devono cercarsi un canale vuoto. Poi devono essere autorizzati a usarlo. Tu sei che non sono autorizzati. Sono tutti in fragranti, senza licenza e senza nulla. È compreso. Anche quelli che fanno la processione, quelli sono senza licenza, senza nulla. Neanche autorizzati sono. Già lo so che molti sono abusivi. Se non pigliano e si organizzano già niente, così alla menna tutto. Già lo so quello, ma non si mai già sapere. Vabbè, ma non è una cosa che sono tutti lì, capito? Una buscagna tanto, cosa ne faccio? Ma... Scusa, ne fai? Adesso mi senti? Ma ti sento, tu mi senti? Ma senti, dottore? Ma sei a... Aspetta un attimo, Mari. Cosa c'è, Bacchi? Ma non lo senti a Marino? No, non lo sento adesso. Bisogna che cambi antenna. Guarda questo passaggio. 1, 2, 3, Bacchisi, avanti. Avanti, tu non mi sentono. No, non ti sente. Vuol dire che devi cambiare antenna, Mari. La facciamo? Scendo io, vabbè. Attacco io, attacchi tu, Bacchi. Devi, non lo so. Ma lui è su, Marino, lui è su, però mi ha detto che non ti ascolta. Forse ti conviene attaccare l'altra, che da Bioasa. E attacco l'altra, la stessa attacco la direttiva direttamente, va. Oh, Bacchi, sta cambiando antenna, Con quell'antenna, da dove Marino, a dove Bacchigio, è un bel coperto, Bacchigio non riesce a tirarlo fuori con quella lì. Marino, col portatile, disgraziato. Col portatile, io sono col portatile sempre. Ma attaccato con l'antenna esterna però. Io no, con l'antennino quello da 20 centimetri flessibile, quello fine fine, sempre quello c'ho. E senti, ma chi? Non mi senti, attacco l'altro, va. Basta, Marino. Marino, mi ascolti? Aspetta, Bacchi, sta cambiando attorno l'antenna, gli aveva attaccato l'altra antenna, no. Arrivi a Boruba, su a me, arrivi via. Sta cambiando antenna. Attento, Bacchisi, io cambio. Ehi, Marino, mi ascolti? Io ti ascolto, avanti. Ho cambiato direzione. Ma io sono giù adesso, sono con l'antenna grande, con l'antenna esterna, vai. No, anch'io con l'antenna esterna, però diciamo così, ho cambiato direzione. Io sto usando l'altro, sto usando. Aspetta che attacco, adesso mi giro, scambio, attacco l'antenna, vai. Poi cambio fuori col portatilino nelle piazzate, capito? Ma ti ascoltavo bene lo stesso, sei tu che non mi ascoltavi. Adesso attacco l'antenna, vai. Ti può curare che sei tu sopra. Nino suo, quello piccolo, l'antenna esterna in questo non lo posso attaccare perché mi manca l'adattatore da questo al PL, capito? Me lo devo comprare quello spinottino che lo abiti qui e poi abito al PL. Non ce l'ho quello, me lo devo sempre comprare uno, tu non ne hai più, no? Un attimino, grazie, chiedo scusa. Come mi ascolti adesso, Bacchisio? Adesso ti ascolto bene, Marino, ti ascolto. No, quel raccordo lì, Graziano, da Fusaro, 9 euro. 9 euro, ma c'è voi? L'ho preso anch'io, l'ho pagato 8,90 euro. E ti consiglio di portare l'apparecchio, nel senso, diversi modelli ho da fattori, No. Ma prima ordinati un lavoro a internet, ma stai scherzando, non vedo, è troppo. Ma come? Così l'abbiamo pagato, l'ho pagato anch'io così per me. 7,80 euro per me. Euro, quello color bronzo, invece adesso sono color argento, costano 9,90 euro, una cosa del genere. Con 12 euro ne compare già 12. Ma che tu Luca non ce l'hai, no questo? Ma quale, grazie, attacco piccolo con un PL? L'attacco che attacchi alla radiolina con l'attacco dei... per attaccare il PL dell'antenna normale. E uno solo ne ho, Graziano. Lo sto usando, uno solo. Prendi su eBay. Aspa, me ne ordini tu due. Poi ti passo i soldi. Chi va? No, no, l'ho messo sotto carica al telefono. Aspetta che entro su eBay. Tanto l'attacco di questi sono tutti uguali, mi sono, sono tutti brizzisi. Da me, perché ho... sei maschio o femmina, mio... o grazia, l'attacco, perché mio... in uno è diverso dall'altro, capito? No, ma nelle radio cosa sono? Tutte femmine, bacchissimo. Femmina è nella radio, un maschio, boh, di questi PMR. Oh, grazie a te, non scusa, ma che io in uno, cioè è uno di ciò da fare qui, è uno diverso dall'altro, spiego, sono diversi, cosa dicevi, davanti, ma che? Invece quelli della cosa, della Baufeng, che sono femmina. Io ho il GT3, ne ho due, e dunque penso che siano uguali, all'altro ce l'ho conservato. GT3 TP, cioè. Luca già lo sa. E Luca già lo sa, sì. Cioè, sono la versione della Baufeng, sono tutti uguali. Quelli della Baufeng sono tutti uguali, non cambia niente. Beh, ma Fanghino che non è vecchio, scritto, lasciami vedere. Fammi vedere. E invece sì, della Baufeng. Però questo che ho io, che sono da prendere il GT3TP. E l'altro è così, però non è il 3, è l'altro più, l'altro modello. Però sono uguali, là. Questo è con la batteria più grande. L'acqua è sempre uguale, grazie. Il coso, sono femmina, maschi voglio dire, quelli della Baufeng, invece quelli della Vox sono femmina. È novero, mi pare in idropugari, ma chi sei un macco, chi sei il ladro brucchio, eh? 12 euro lo primo ci ho pagato, 12 euro. Perché a quello della Baufeng c'è uno solo, invece chi si deve al coso, dirà... di la Vox ci sono due pezzi, uno grande e uno piccolo. Riprendi Tore. Sì, io riprendo, perché mi stanno chiamando. Ok, dai, ci sentiamo domani. Ci andato tu ve. Ok, ciao Bacchisio, ciao Graziano, ciao Marino e ciao a Luca. Ok, a domani. Ok, ciao Tove, sentito, salto in casa. A domani, se concili, avanti Bacchisio. Ciao Tore, buona serata, saluti in casa, buona tutto, a domani, se tutto va bene, Graziano riprendi. Ciao Tore, ce la risentiamo, va bene, approfitto anche io a chiudere, da. Ciao a tutti, ciao Tore, ciao Bacchisio, e ciao Luca, ok, Luca, il mio è uguale al tuo, capito. Cos'è maccio o femmina? Adesso te lo dico là. Ok, riprendi Bacchi, ciao. Ciao Graziano, buona serata, saluta la signora, a domani che tu concide. Avanti Marino. Ciao Graziano, ben sentito, saluto in casa, domani ci sentiamo se concide, dai. Ok, avanti Bacchi, e domani, non lo so, se finisco prima ti chiamo, perché dovrei andare dal consulente che mi ha chiamato a tirare 7.30 a firmare, a pagare e ritirarlo. Avanti. E una cosa buona fai domani. Pagare, firmare e tutto, via. No, io l'ho già fatto. L'ho fatto da quel giorno che siamo incontrati, diretto che ero dal consulente. Fatto, fatto, non se ne parla più. Ok. Avanti, Luca. E Luca è al computer, al cellulare, sta cercando quel raccordo. D'accordo per Graziano sta cercando e in effetti qui si va di ne approfitto ma chi se lo fanno pagare lo fanno, c'è da fare. Io invece stavo provato con lo dico io il microfono che abbiamo preso uno io dal tuo cugino, va bene, anche quello là nell'altro panicchio E sta anche bene, lo sai. E va, funziona bene anche. Ehi, no, va bene anche su quel giocattolino che abbiamo in macchina. Va benissimo anche lì. Esatto. E gira, lì. Se in caso devi prendere roba, ne prendo un altro, se ne ho neanche qualcosa a fuori. Ne ho un altro, ma lo tengo in macchina, così almeno lo metto fisso, cioè con il microfono viene bene. Però ho notato una cosa, quel giocattolino che abbiamo in macchina esce più bene di questi qua. Sì, io poc'anzi ero fuori nel piazzale, è arrivata tutta bomba giù, figurati, e io con il cocomino, Ehi, no, io andavo con l'altra antenna famosa, dunque non c'era, però con la grande ti ascolto benissimo. Ascolta, adesso io ti attacco, sta c'è quel giocattolino, però sto utilizzo l'antenna, quell'antenna, quel tubicino che ho io direttamente, là. Ah, si accende, va. Ah, si è acceso. Ah, si accende, ce l'ho l'altro, va. Ehi, dai, veloce, ora di andare a prendere le pastiglie, un altro giro e poi vado. Già fatto il bacchì, già fatto. Come mi ascolti adesso? Più basso. La modulazione è molto più bassa. Ehi, Marino, non mi ascolti? E basso sei adesso, Ehi, di russo. Va bene, Marino, ti devo lasciare, che ho una delle pastiglie. Ci sentiamo domani. Se stai bene, saluti in casa, a domani se tu coincide ci sentiamo e ce la vediamo. Ok, riprendi ancora per il finalino e poi vado via.